E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata epifanica, se così vogliamo dire. Oggi il programma terminerà alle 18, avremo una programmazione infatti un po' festiva in radio, però le borse sono aperte quasi tutte le borse, non solo Milano. Nel caso specifico Milano però in questo momento, quanto andamento degli indici, è positiva di quasi mezzo punto percentuale ed è, lo possiamo dire, tra le migliori, nel senso che Parigi è invariata. Francoforte guadagna lo 0,6%, Londra è invariata. Adesso se mi abbassano la sigla di inizio riesco anche, grazie. Dow Jones meno 0,37%, ancora l'euro invece è in ulteriore indebolimento, era 3-4 giorni fa a quota 1,34-1,33, adesso siamo a 1,30 nei confronti del dollaro. Volete subito, vedo già messaggi, sapere di Fiat. Fiat tiene banco anche oggi. E oggi però diciamo, si invertono i ruoli, nel senso che Fiat Auto, quella che molto ha corso in questi giorni dal debutto delle due Fiat, perde il 2,5% ed è a 7,40 euro. Fiat Industrial, quella dei camion e dei trattori, delle macchine in movimento terra, guadagna il 3,63% a 8, ultimo prezzo 9 euro per azione. Comunque vale la pena notare che la somma tra i 9 euro che fa adesso Fiat Industrial e comunque i 7 euro che sta segnando, 7,40 euro, sono 16,40 euro, siamo a un euro secco in più rispetto all'ultimo prezzo fatto da Fiat quando era unita, e mi riferisco al 30 dicembre che era appunto di 15,40 euro. Questo a dire che comunque il mercato premia la divisione in due dei titoli. Tra chi va bene segnaliamo, oltre a Fiat, Prysmian, e di questo parleremo anche domani, più 8,20%, si è ritirata la concorrente cinese per un'offerta di cui molto abbiamo parlato anche con il numero uno di Prysmian da questi microfoni, e quindi sostanzialmente il titolo festeggia. Fiat è il secondo miglior titolo, Diasorin più 3,45%, Finmeccanica più 2, Mediaset più 2 anch'essa, Tod's più 1,5%, Eni più 1,5% come Telecom Italia, e Mediolanum un punto percentuale guadagna ST Microelectronics. Chi perde invece? Saipem meno 1,80, Impregilo meno 1,6 come Tenaris, un punto e mezzo lo cede Monte dei Paschi, l'1,20 il calo di UbiBanca e anche di Unicredito, meno 1,1 è quello di Terna e di Campari, meno 1%. Parmalat 349-238-6666 per i vostri sms, battete un colpo se siete in ascolto anche durante questa festività dell'Epifania. Di cosa ci occuperemo oggi? Domani torneremo, vi anticipo, sul tema del rapporto tra imprese italiane e imprese cinesi, e Cina, visto che ieri molti ascoltatori si sono arrabbiati, e tratteremo altre testimonianze di imprenditori italiani che vanno a produrre in Cina mantenendo la produzione anche in Italia, in qualche modo si salvano grazie anche al mercato e alla produzione cinese. Oggi i temi saranno di carattere invece macroeconomico, perché tale è la giornata. Da Parigi il ministro dell'industria francese ha unito un insieme di rappresentanti, tra cui il nostro ministro Tremonti, e Tremonti stesso, la conferenza va avanti anche domani, si chiama Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme. Oltre a Tremonti c'è il suo corrispettivo francese Christine Lagarde, il primo ministro greco George Papandreou, Joseph Stiglitz, premio Nobel dell'economia. Tremonti ha detto: attenzione, la crisi è tutt'altro che finita, ma soprattutto sembra un videogame, frase che aveva già usato un anno fa, ma il fatto che la riusi adesso è comunque significativo. Sembra un videogame, abbatti un nemico e ne rispunta un altro. E poi ha detto: non in Italia, ma in realtà nel resto del mondo, salvando le banche, abbiamo salvato anche gli speculatori e siamo tornati al punto zero. Un Tremonti particolarmente, diciamo, cupo o comunque pessimista sullo stato dell'arte dell'uscita da questa crisi e soprattutto su quanto si possa o non si possa riprodurre. Poco fa è intervenuto anche il ministro dell'economia, chiamiamolo così, il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner, riferito soprattutto agli Stati Uniti, ma ha chiesto in sostanza al Congresso di aumentare il tetto del debito che possono raggiungere gli Stati Uniti, perché, ha detto Geithner, senza un aumento del tetto sul debito il rischio è un default. Devo dire che il mercato per ora, oddio, l'America perde lo 0,43%, ma insomma non ha reagito male come uno potesse attendersi. 349-238-6666 per i vostri SMS, grazie per gli auguri alle Befane di Radio 24, meglio Befane che Gufi. E adesso le notizie in breve. Di Tremonti, Geithner, dello scenario che è emerso da questo vertice a Parigi parleremo tra pochissimo. Invece, per quello che riguarda i mercati, l'oro è ancora in calo in Asia, 1374 dollari l'oncia, il petrolio è leggermente in calo a New York, ma siamo sempre vicinissimi ai 90 dollari al barile, 89,95 per la precisione. E sempre in tema di petrolio, ma in questo caso parliamo della British Petroleum e quindi del disastro del Golfo del Messico, le conclusioni della commissione d'inchiesta sull'incidente alla piattaforma BP sembrerebbero escludere per la compagnia l'accusa di grave negligenza. La questione non è da poco, perché in caso di colpa grave British Petroleum potrebbe essere chiamata a risarcire fino a 17 miliardi di dollari, cioè una manovra finanziaria italiana, anche due. Se invece la grave negligenza non venisse dimostrata, la cifra del rimborso, del risarcimento per British Petroleum si ridurrebbe di un terzo, a 4 miliardi e mezzo. Perché questo? Perché nel caso non venisse dimostrata la grave negligenza di BP, allora le colpe, diciamo, del disastro nel Golfo del Messico verrebbero divise con altre compagnie appaltatrici come la Holly Barton, qualcuno se la ricorderà, famosa Dick Cheney, e la Transocean. A Londra il titolo guadagna oltre il 2% dopo la notizia. Ancora un paio di notizie di carattere internazionale. Il sogno di Ratan Tata, parliamo di automobili. Tata è, insomma, il colosso indiano dell'auto, l'uomo che sta cercando di motorizzare l'India, e con un principio, insomma un principio che in Italia conosciamo bene, che ci riporta agli anni 60. Qualcuno se la ricorderà, la Nano, l'automobile che costava solo 10.000, che costa solo 10.000 rupie, circa 2.200 dollari. E c'era l'idea che, insomma, come è avvenuto per la 500 e la 600 negli anni 60 in Italia, questo potesse rappresentare il veicolo per la motorizzazione del paese, soprattutto della piccola borghesia indiana. Ebbene, così non è stato. Un vero flop quello delle vendite della Nano, sono soltanto 70.000 in un paese come l'India, 70.000 le Nano in circolazione. Pensate che lo scorso novembre ne hanno vendute solo 509. Praticamente i parenti di Tata se la sono comprata, meno 85% rispetto allo stesso mese del 2009. E tra l'altro la cosa è strana, perché nel frattempo marchi come Jaguar e Land Rover, che non sono esattamente delle utilitarie, stanno andando benissimo quanto a vendite in India. E ricordo che sia Jaguar che Land Rover appartengono sempre a Ratan Tata, la Tata. Restiamo sul fronte internazionale. Shopping in Cina per il Mandarin Capital Partners, che è, insomma, il principale fondo di investimento italo-cinese, sta entrando nel capitale di una società cinese attiva nel settore farmaceutico, acquisendo una partecipazione di quasi il 30%, lo anticipa l'agenzia di stampa Radio Cori Sole 24 Ore. L'operazione riguarderebbe un'impresa cinese della città di Shenzhou con un fatturato di circa 40 milioni di euro, un nuovo tassello nella strategia di crescita di Euticals, che è la controllata del Mandarin Fund, dopo che è entrata in possesso della Polichimica, un'azienda di Milano, ed è pronta a firmare anche il preliminare di acquisto, come abbiamo riferito anche questa mattina nel GR, del 100% di Archimica, società che produce principi attivi per il settore farmaceutico sia in Italia, in Germania, in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. In questo modo nascerà uno dei maggiori gruppi italiani nel settore chimico-farmaceutico. Allora. Per quello che riguarda l'economia internazionale, volete sapere di Gaetan, adesso arriveremo, la battuta sulle Befane era un invito, un messaggio di un nostro ascoltatore, immagino appunto affettuoso e ironico, sono tutte bellissime, ha ragione un altro ascoltatore, le ragazze e le donne che lavorano a Radio 24, ci mancherebbe, altrettanto non possiamo dire degli uomini, guardando di là dal vetro. Andiamo seri, primo tema, qui purtroppo il tema è serissimo, mi riferisco alla disoccupazione, alle stime sulla disoccupazione in Italia, però attenzione perché ancora un paio di notizie arrivano al fronte internazionale, di nuovo la Cina che sta comprando il debito europeo, già ieri abbiamo scoperto la stima di 630 miliardi di euro comprati di debito nostro, comprati dai cinesi, meno male che ci sono i cinesi, continuo a dirlo come provocazione, e oggi si è saputo che la Cina comprerà altri 6 miliardi di obbligazioni spagnole, non è poca cosa, è una mezza manovra finanziaria, lo ha evidenziato il quotidiano spagnolo del Paese, citando fonti governative, e quindi ai 6 miliardi già detenuti di obbligazioni portoghesi e spagnole di debito iberico, la Cina vi affiancherà altri 6 miliardi. Siamo appunto intorno al 7%. Adesso arriviamo a Tremonti, al fatto che i CDS, ossia i credit default swaps, i premi pagati sulle polizze per assicurarsi contro il rischio fallimento di un paese, ebbene il valore di questi CDS sia per la prima volta più alto nei paesi dell'Europa occidentale rispetto a tutti i paesi emergenti, e qui torniamo al tema della grande speculazione, della grande liquidità che c'è in giro, dei tassi a zero e di un Tremonti che dice siamo tornati al punto di partenza. Forse glielo diamo un gufo a Tremonti dopo, tanto non si offende, anche perché il gufo esorcizza. Però prima di tutto vorrei partire con l'allarme occupazione e cassa integrazione lanciato oggi dalla CISL, che ci lascia ancora più sorpresi, visto che due giorni fa il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, commentando con noi in diretta i dati sulla cassa integrazione, ha nel 2010 tutti positivi, l'ordinaria e quella in deroga, soprattutto il netto calo, aveva detto attenzione, non è calata la cassa integrazione perché in realtà è aumentata la disoccupazione e sono stati espulsi dal mercato di lavoro i cassa integrati. E allora partiamo proprio da qui, perché oggi la CISL dice ci saranno 400.000 lavoratori oggi in cassa integrazione che rischiano di diventare disoccupati. Lavoratori nel 2011, oggi intrappolati nella cassa integrazione, rischiano di diventare disoccupati. La stima del segretario generale aggiunto della CISL, Giorgio Santini, che è in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. E buona Epifania, per non dire buona Befana, sennò qua mi massacrano gli ascoltatori. Allora, le faccio ascoltare, segretario Santini, che cosa ci ha detto due giorni fa in diretta il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, commentando una cassa integrazione che a dicembre era crollata, meno 16%, che comunque era calata nettamente come ore utilizzate rispetto al 2009, meno 58%, e tutto insieme di altri dati, con un consumo, quello che si chiama tiraggio, la differenza tra quanto richiedi come azienda e quanto effettivamente usi, che era calato al 50% del totale. Gli abbiamo chiesto, non è che la cassa integrazione vada meglio perché in realtà purtroppo i lavoratori vengono espulsi dal mercato del lavoro? Questa è la risposta del presidente dell'INPS. Ma no, non risulta, perché c'è la cassa integrazione ordinaria, si passa poi alla straordinaria senza soluzione di continuità, addirittura se ci permane la crisi si può passare alla deroga. Noi abbiamo comunicato anche oggi le domande sulla disoccupazione e mobilità, abbiamo un calo sulla disoccupazione, un calo sulla mobilità, quindi non avvertiamo ancora un'espulsione dal mercato del lavoro, ma invece c'è una tenuta dei lavoratori all'interno delle aziende e attraverso gli strumenti di sostegno al reddito che eroga l'INPS. Allora, vedo che nemmeno la Befana, il ponte, addolcisce alcuni ascoltatori. C'è chi scrive, guarda che sono i cinesi quelli che hanno, i miei cinesi, sì certo, che hanno provocato la crisi, a noi non risulta che la crisi l'abbiano provocata investimenti scriteriati, speculativi della finanza in gemelli e doppio petto e gessato americana, della City di Londra, insomma, e anche di Hong Kong, per carità, ma non certo la produzione manifatturiera cinese che ha creato la crisi. Questa proprio. E forse mutui dati in maniera scriteriata in America, anche in Europa, forse l'Irlanda, le banche irlandesi potevano essere un po' più oculate, le banche inglesi pure, certi investimenti delle banche francesi, i conti truccati dalla Grecia, i mega bonus dei manager fraudolenti americani, ma i cinesi obiettivamente come grandi creatori di questa crisi ancora non li abbiamo visti, E poi un altro ascoltatore che dice: ma lei crede ancora a questi dati? Non ha la conoscenza della matematica per capire che sono tutte sciocchezze. Cominci a studiare le cose serie. Volentieri, se me le elenca. Io, per restare sulle cose serie, vorrei sapere dal segretario della CISL, Giorgio Santini, come vi è uscita questa cifra di 400.000 casi integrati a rischio di disoccupazione, che andrebbero a sommarsi all'esercito, come dite voi, dei 2 milioni di disoccupati già presenti in questo paese. Santini. Allora, guardi, il dato della cassa integrazione del 2010, che per fortuna negli ultimi due mesi si è leggermente ridotto, rimane però come stock, cioè come persone coinvolte, come ore autorizzate, un dato molto molto alto, siamo sopra il miliardo di ore autorizzate, e quindi considerando che entriamo con il 2011 nel terzo anno di crisi, perché da settembre 2008 siamo nel terzo anno inoltrato di crisi, chiaramente se questa cassa integrazione non si risolve in aumento di occupazione, come tutti ovviamente cerchiamo di fare, il rischio che diventi invece disoccupazione è un rischio reale. Quindi il problema che si pone per il 2011 è quello di mettere in campo tutte le ricette possibili, a partire naturalmente dagli investimenti, ma anche politiche del lavoro più centrate non solo a dare gli ammortizzatori, cosa necessaria ma non più sufficiente, ma anche a cercare di far rientrare queste persone al lavoro, o piuttosto mandarle in mobilità, in questo caso lavorativa, presso altri possibili impieghi. In questo senso noi lanciamo un allarme: se non si fa nulla di tutto questo, se non si accentuano gli investimenti, se non migliorano le politiche di reimpiego, il rischio concreto è che questa cassa integrazione, che giustamente abbiamo chiesto e il governo ha prorogato anche per il 2011, compreso la straordinaria e la deroga, rischia di piano piano poi diventare disoccupazione. Teniamo conto che ai dati conosciuti si affianca anche questo dato oggettivamente inquietante della disoccupazione giovanile al 25%, che è il dato peggiore in Europa, che segna proprio la difficoltà sulle politiche del lavoro, sulle politiche delle assunzioni. Quindi il tema del 2011 deve essere questo: fare tutto quello che è necessario. Lei sa che noi siamo sostenitori dell'accordo di Mirafiori, cioè investimenti con condizioni anche, diciamo, di responsabilità, perché purché si riprenda seriamente a lavorare, si esca da questi ammortizzatori che sono appunto necessari, ma prolungati nel tempo diventano poi preludio alla disoccupazione. Allora, alcune delle vertenze aperte proprio a inizio anno, che in attesa di soluzione, se ho ben capito, voi chiedete anche l'intervento del ministro su questo, mi riferisco a aziende soprattutto chimiche e petrochimiche, la Bassel, Euroalluminia, Tamoil, la Vinils. La Vinils è stata oggetto anche dell'isola dei cassi integrati, si sono sbloccati gli stipendi a dicembre, però insomma, ha impianti in Veneto, Emilia Romagna e in Sardegna. L'appuntamento chiave per la Vinils è il 10 marzo, ossia il passaggio al fondo svizzero GITA dopo l'accordo con Eni. Per Euroalluminio invece è prevista una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico il prossimo 14 gennaio. C'è l'avvertenza Eaton, multinazionale americana che ha messo in mobilità 304 lavoratori lo scorso 15 dicembre, proprio a ridosso del Natale. E poi l'Antonio Merloni con gli stabilimenti di Fabriano e Gaifano, dove ci sono 2.300 persone, sono ancora invenduti, a rischio 600 posti. Le chiedo quali iniziative concrete voi immaginate possa prendere il ministro, in questo caso lo sviluppo economico, sia Romani, fermo restando che dopo le parole di oggi di Tremonti dubito che il ministro dell'economia potrà allargare i cordoni della borsa. Intanto è stato molto importante che si siano prorogati gli ammortizzatori, perché comunque bisogna rispondere alla gente che rimane a casa senza lavoro. Noi abbiamo in questo momento 170 vertenze aperte al Ministero dello Sviluppo Economico. Purtroppo lì ha pesato moltissimo il lungo periodo, 5 mesi di assenza di un ministro. Comunque adesso si è ripreso, come ricordava anche lei, a lavorare alacremente. Bisogna vertenza per vertenza, tavolo per tavolo, costruire soluzioni possibili. Anche quando sono dolorose, recentemente si è concluso il caso Indesit, che io voglio citare perché è un caso anche forse che farà scuola. 4 stabilimenti in Italia, ne hanno chiusi 2 per potenziare e salvare gli altri 2. Nei 2 chiusi si sono fatti accordi di reimpiego a Brembate e a Treviso, accordi di reimpiego di tutti i 400 lavoratori che purtroppo da un certo punto del 2011 rimarranno senza lo stabilimento, diciamo, originario, ma andranno in tempi abbastanza rapidi a fare degli altri lavori. Quindi da questo punto di vista ogni vertenza ha la sua storia, vanno trovati investitori, vanno costruite condizioni perché gli investimenti si facciano, vanno favorite le mobilità, cioè c'è un insieme di politiche da fare, alcune di queste dipendono dal governo, ad esempio noi pensiamo che in alcuni settori è importante, è allo studio in questo momento un piano di revisione degli incentivi per gli investimenti che a nostro avviso sono stati troppo a lungo, diciamo così, concessi in maniera troppo facile, vanno rivisti ma debbono ripartire, e quindi da questo punto di vista ci sono tante azioni che dobbiamo mettere in atto e noi con questo allarme abbiamo voluto dire attenzione perché non si esce dalla crisi, diciamo così, in maniera soft, bisogna metterci veramente tutti la faccia, la responsabilità e tanti tanti strumenti. Allora, ho la domanda delle domande per lei adesso, che vediamo se ci riesco, tiene assieme la Cina con Marchionne. Vedo molti messaggi a 349-238-6666, ci arriviamo, prendo spunto da un messaggio, che ieri abbiamo avuto un po' di polemica anche in onda con alcuni ascoltatori che vedono nella Cina solo una minaccia, una livella, uno tsunami che travolgerà diritti acquisiti, storia secolare di relazioni industriali in Europa. Un ascoltatore dice meglio sotto la Cina che sotto un ponte, inteso come senza lavoro. Allora, mentre la Fincantieri ha rotto i rapporti con Confindustria, Genova e Gorizia, cioè non pagherà più le quote nelle territoriali genovesi e goriziane, 340.000 euro in meno di pagamento di quote associative, perché non a livello nazionale, però insomma dice il mancato sostegno, lamenta il mancato sostegno di queste 2 associazioni nella vertenza che ha con i sindacati, fa riferimento Fincantieri al modello Marchionne, ossia aumentare la produttività anche a costo di orari più svantaggiosi. Voi come CISL, FIM e anche la UIL avete firmato un integrativo, l'accordo sull'integrativo nell'aprile del 2009, dove si aumenta la produttività, l'efficienza dei cantieri e si combatte l'assenteismo. La FIOM, dopo un duro scontro, ha firmato anch'essa più avanti. Allora abbiamo da una parte il modello Marchionne, che dice noi siamo un'azienda globale, vale anche per la Fincantieri, vale anche per altre aziende, dobbiamo avere una competizione in produttività globale. Dall'altro, e quindi riferimento alla Cina c'è, ci sta tutto. Dall'altro c'è il timore di molti ascoltatori che dicono ma se noi ci mettiamo a concorrere, a competere con la Cina, addio diritti. E poi c'è la linea di chi dice vabbè, meglio un lavoro sotto i cinesi che nessun lavoro. Fino a dove la spostate l'asticella, Santini? Ma noi pensiamo innanzitutto che bisogna in Italia riattivare gli investimenti, perché da troppi anni non se ne fanno più e i conti sono pesanti, quelli occupazionali li abbiamo appena ricordati. Le prospettive non sono facili. Chi può investire? Guardi, solo un piccolo campione di queste 170 vertenze, che in questo momento sono al Ministero, ma sono appunto indicative di tutti i settori, ci dice che è cambiato notevolmente il profilo anche degli investitori. Intanto è cambiato geograficamente, sempre di più l'Oriente entra prepotentemente con soggetti, la Cina, l'India, ma non solo, e poi soprattutto gli investitori ormai sono legati ai fondi, no? Non sono più gruppi industriali, non sono più famiglie, generazioni di grandi famiglie industriali, sono fondi eccetera. Allora, si tratta naturalmente di fare i conti con questo, la priorità sono gli investimenti perché senza investimenti non c'è il lavoro, naturalmente nessuno di noi è disponibile di buttare a mare tutta la storia importante del sindacato italiano, che è una storia di contrattazione sempre responsabile, non è mai stata né estremistica né Naturalmente bisogna fare delle scelte che in molti settori sono state fatte, ad esempio questa discussione che c'è sulle turnistiche di Mirafiori, noi l'abbiamo fatta in siderurgia, negli impianti chimici, ma anche ad esempio nella sanità, molti anni fa, trovando degli equilibri che hanno mantenuto la produzione senza, diciamo così, rottamare i diritti. Ecco, ma mi dica una cosa per concludere, lei condivide l'affermazione meglio sotto i cinesi che sotto un ponte? Beh, sotto un ponte si sta malissimo, quindi quello che l'importante è che ci sia un investitore e che ci sia il lavoro per poter negoziare anche condizioni di reddito e di tutela normativa adeguate. Pensiamo soprattutto ai giovani, quindi diciamo che oggi conta meno la provenienza geografica, conta di più la capacità del sindacato naturalmente, ma anche del territorio, delle comunità, di trovare le condizioni che permettano investimenti e lavoro. È la nuova sfida di una partita che pensavamo già di aver vinto, ma che invece, come è cambiato il mondo in questi decenni, in questo ultimo in particolare, ha purtroppo riaperto, mettendo i lavoratori certamente in grandi difficoltà, ma dalle quali si può uscire con idee nuove, con capacità di confermare i vecchi obiettivi, i vecchi valori, sì, ovviamente aggiornati e resi più dinamici. Vabbè, quindi possiamo, io forzo un po' la sua risposta, insomma, sotto un ponte si sta male, si sta meglio sotto un investitore, pecunia non olet, il denaro non ha odore e non ha nazionalità. Grazie, mi interessava molto questo perché è un tema che stiamo portando avanti in questi giorni, visto che ogni volta che gli investitori sono cinesi sembra che puzzi, no? Devo dire, nel caso di Prysmian invece per la Draca, l'olandese Draca, si sono ritirati i cinesi, ma nel caso di Pininfarina il titolo oggi è sulle montagne russe proprio per via di un interesse cinese su questo. Nel frattempo ringrazio per averci raggiunto in collegamento sia il professor Marco Nado, editorialista del Sole 24 Ore e docente di economia e intermediari finanziari dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Che il corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, Antonio Poglio Serimbeni. Buonasera anche a te. Buonasera a voi, sono a Parigi comunque. Sì, però il corrispondente lo fai da Bruxelles. Sì, certo. Oggi momentaneamente a Parigi, diciamo, poi decidiamo stasera dove sarai. Grazie intanto al segretario generale aggiunto della CIS Giorgio Santini e buona Befana, Santini. Grazie a voi e buonasera agli ascoltatori. Allora, adesso c'è lo stacchetto musicale tutto, vi voglio però far sentire prima di tutto Giulio Tremonti da Parigi, dove appunto Antonio Poglio Serimbeni, non sul tema della crisi ma sul tema proprio della Cina e degli scontri tra continenti. Se lei guarda la carta geografica, vede che il confronto, la competizione è tra blocchi continentali. C'è il blocco dell'America, il blocco dell'Asia con dentro la Cina, l'India, c'è il Sud America, c'è il grande blocco dell'Europa, che però la zona più ricca del mondo, più istruita, più storicamente forte del mondo, tuttavia non è unita. E allora, vertice oggi a Parigi, Antonio Poglio Serimbeni con Giulio Tremonti, organizzato dal ministro dell'industria francese Éric Besson. Nouveau monde, nouveau capitalisme, fino a domani a Parigi, non sto facendo una promozione, Giulio Tremonti, Christine Lagarde, che è il corrispettivo di Tremonti in Francia, ministro dell'economia e delle finanze, George Papandreou, primo ministro greco, e Joseph Stiglitz, premio Nobel all'economia. Tremonti sulla crisi. Questa crisi viene dal settore privato, viene dal settore finanziario, ha investito i debiti pubblici che si sono fatti carico di passività. La grande depressione dell'altro secolo fu gestita usando il denaro dei contribuenti per finanziare l'economia reale, l'industria, le famiglie e il lavoro. La grande depressione di questo secolo, il denaro del contribuente è stato usato per finanziare le banche. E siccome le banche erano sistemiche, c'è un piccolo dettaglio, anche la speculazione è sistemica nelle banche, quindi è stato usato il denaro pubblico per finanziare e salvare con le banche anche la speculazione. E infatti siamo tornati quasi al punto di partenza. Non è il caso dell'Italia, dove per fortuna il denaro pubblico non è stato usato. se non in minima parte, è in via di restituzione per le banche, ma il nostro caso è diverso. Ai vecchi tempi la proposta fu: nazionalizzatevi le banche e considerate le banche per 10 anni come una infrastruttura sociale. La risposta di molti ministri fu spiritosa e fu: non possiamo, siamo socialisti. Allora, il gufo per ora non lo diamo al ministro Tremonti, però ci è andato molto vicino. Antonio Poglio Salimbeni, insomma, un Tremonti così, la crisi è un videogame, l'aveva detto un anno fa, ma torna a dirlo, ne abbatti uno e poi ne spunta un altro, di nemici. Abbiamo salvato, oltre che le banche, gli speculatori, siamo al punto di partenza, c'è una lotta, diciamo, continentale, tra blocchi continentali, ma alla faccia dell'allegria. Te lo aspettavi un Tremonti così scettico? Ma insomma, seguendolo spesso per i suoi viaggi, tra virgolette, europei, tutto sommato. Perché tra virgolette? No. Perché tra virgolette? No, tra virgolette. Tra virgolette il viaggio, insomma. Vabbè. I suoi viaggi europei direi di no. Certo che oggi ha detto tre cose molto chiare. La crisi non è finita, per la verità Tremonti non si è mai sbilanciato sull'uscita facile dalla crisi. La seconda cosa, come si è visto, come si è sentito, appunto, sul fatto di aver salvato con le banche la loro speculazione, fatta appunto dalle stesse banche, per il nome del salvataggio dell'intero sistema. E qui c'è da dire che però Tremonti, come ministro dell'Ecofin e dell'Eurogruppo, ha condiviso le scelte dell'Ecofin e dell'Eurogruppo in questa direzione. E quindi non si capisce se in effetti critica anche ciò che Eurogruppo e Ecofin hanno deciso per contrastare future crisi oppure no. Penso alle riforme della regolazione finanziaria, penso a tutto il quadro dell'architettura, tutto il quadro della nuova supervisione. Non è magari un Tremonti che vuole levarsi un sassolino dalla scarpa perché i tedeschi e poi anche i francesi gli hanno bocciato gli eurobond, le obbligazioni europee, suo progetto assieme al Presidente della Commissione Europea, e allora dice: beh, avete salvato comunque tedeschi, francesi, oltre che italiani, oltre che le banche, avete salvato anche gli speculatori, e il riferimento è al salvataggio anche greco e irlandese, diciamo. Questo è possibile, potrebbe essere così. Per la verità sia Tremonti che Juncker, il presidente del gruppo lussemburghese, il premier lussemburghese con il quale ha rilanciato la proposta di Eurobond, sia Juncker che Tremonti hanno bisogno di trovare alleati in questa battaglia dell'Eurobond, non certo quello, e quindi aprire una discussione e di farla proseguire. Discussione che allo stato però alla fine sembra appare molto molto molto stentata, sì. Molto difficile. La terza cosa che ha detto è che in questa condizione politica l'Europa deve fare un salto, e questa forse è la cosa più interessante. Lui è arrivato a dire perfino che deve fare un salto in senso federale, quasi a dimostrazione che quanto il governo italiano sta facendo per il federalismo debba essere coronato da un contesto europeo molto favorevole in questa direzione. E qui naturalmente quello che lui ha detto sui blocchi, no? Ma anche il blocco europeo c'è, però è diviso al suo interno, e questo lo rende debole. Questo è il punto. Allora, l'Europa deve fare un salto, speriamo non sia il salto della quaglia, perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di quello. Professor Onado, un commento in primo luogo a la crisi non è finita, va bene, ma soprattutto al Tremonti che dice: abbiamo salvato banche e speculatori e siamo tornati al punto di partenza quanto a speculazione. Beh, francamente non mi sorprende più di tanto, perché non è neanche il primo ministro o prima autorità di governo che lancia un sasso in questa direzione. Visto che era a Parigi, poteva citare il proverbio francese: plus ça change, plus c'est la même chose, perché di questo si tratta, ma indicazioni in questo senso le abbiamo dai rapporti delle principali autorità. Le banche, grazie anche al fatto che si sta continuando a immettere liquidità a condizioni favorevoli e in quantità eccezionali, hanno tutto tutte le possibilità per utilizzare questa liquidità per scopi speculativi, cioè per prendere posizioni sui titoli, che vuol dire qualche volta rialzo e qualche volta ribasso, naturalmente, con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, nel frattempo, come ricordavo circa un'ora fa, Timothy Geithner, il segretario del Tesoro americano, il professor Onato, ha chiesto al Congresso di agire per aumentare il tetto del debito entro i primi tre mesi dell'anno e ha aggiunto, in una lettera inviata al leader della maggioranza in Senato, Harry Reid, ha detto: senza questa azione il rischio è il default. Mi sembra Timothy Geithner che insomma chiede sostanzialmente di alzare l'asticella di quanto debito l'America può imbarcare. Sì, è una notizia che sento in diretta, mi stupisce insomma un'indicazione così drastica e così netta. Mi sembra l'equivalente di un medico che obbliga la temperatura a non salire oltre i 38,5, ecco, una cosa. L'attacchipirina diciamo del debito americano. Sì, peggio ancora, insomma, è l'ordine all'influenza di non far salire la febbre oltre un certo livello. Allora, visto che tornando al punto di partenza, io credo che, ripeto, l'ha detto oggi Tremonti, l'hanno detto anche altri nei giorni scorsi, occorre ridimensionare il sistema bancario e riportarlo di più verso l'attività al servizio dell'attività produttiva, degli investimenti, delle imprese, eccetera, eccetera. Tanto che si continua da una parte a offrirgli liquidità, ripeto, a condizioni assolutamente eccezionali e non si mettono le regole che sono state promesse, è ovvio che le banche continuano a fare il mestiere che hanno fatto fino a ieri. E quindi ha ragione, secondo lei, Tremonti nel dire la speculazione è tornata al punto di partenza? Certo, però ripeto, se per esempio fossero già state introdotte le misure che riguardano la limitazione dell'uso di mercati over the counter, una parte notevole di questa attività speculativa sarebbe stata già tagliato quantomeno le unghie. Allora vorrei sapere da Antonio Polesserimbeni, poi anche il commento di Marco Nado, di che cos'altro è emerso da questa prima giornata di lavori, se si è parlato anche di questa Cina che oggi, ripeto perché si fosse messo in collegamento, ha annunciato che comprerà altri 6 miliardi di debito spagnolo, già ne ha presi 6 di debito di obbligazioni portoghesi e cinesi. Ieri appunto stima di un quotidiano tedesco, la Cina ormai ha circa il 7% del debito europeo complessivo, 640 miliardi di euro, però a grande richiesta, tanto il ministro Tremonti è un ministro che ha il dono dell'ironia, la sua frase, insomma, la crisi non è finita, ne siamo tornati al punto di partenza sulla speculazione, unita alla frase di Timothy Geithner sul fatto che se non gli aumentano il tetto sul debito l'America va in default, vincono il primo gufo del 2011. Allora, traffico e poi l'ultimo commento di Antonio Polo Serimbeni e di Marco Nado e poi la borsa, abbiate pazienza, più 0,40%, molto bene oggi Fiat Industrial, più 4,20, meno realizzi invece su Fiat Auto, meno 2,42%, il caso si chiama Prismian, più 9,20% dopo la rinuncia dei cinesi sull'operazione con l'olandese Draca. Gli altri temi, e si è parlato insomma della Cina che viene a salvare il debito europeo, in parte perlomeno. Ma no, in effetti ciò è stravagante, appare stravagante, ma non si è parlato di questo. Si è parlato soprattutto del modo in cui la presidenza francese del G20 sta impostando l'agenda politica del G20. Interessante notare che la responsabile delle finanze francesi, Christine Lagarde, ha riconosciuto che ancora nel G20 non esiste una lettura comune, condivisa, del disfunzionamento del sistema finanziario globale. Auguri. Senza questa lettura comune non ci potrà essere una ricetta comune. In ogni caso i due temi fondamentali restano i flussi di capitale, controllarli sì, no, e nel caso di siccome Secondo tema, i cambi. Come assicurare un coordinamento efficace dei cambi a fronte degli interessi divergenti dei blocchi mondiali di cui parlavamo prima. Insomma, i paesi in surplus e quelli che non lo sono. Tante idee divergenti. Professor Nado, insomma, è incredibile questa cosa che a distanza di 2 anni ancora non ci sia un'analisi comune tra i medici, insomma, della malattia del paziente. A me ricorda quel dipinto di Rembrandt, penso, non vorrei dire una castroneria, della seduta anatomica, con tutti questi medici seicenteschi con cappello, no, molto pomposo, però, insomma, alle prese con un principio di anatomopatologia, ma ancora non avendo capito nulla. Non è strano che, insomma, non ci si riesca ancora a mettere d'accordo sulle origini, su come bloccare, i rimedi, a distanza di 2 anni e passa? Beh, metterla così è un po' troppo drastica, francamente, perché alcuni passi sono stati fatti, a cominciare dal nuovo quadro di Basilea, eccetera. Quello che manca è l'accordo su come ridimensionare il ruolo delle banche, e questo è una cosa sicuramente molto più difficile e che credo nessun paese vuole cominciare. Credo che in modo adeguato a quelle riunioni il messaggio sia vai avanti te che a me mi viene da ridere, insomma, ecco questo credo che... Va bene, grazie a tutti e due. Devo dire che, insomma, siamo entrati dopo pochi giorni di inizio 2011 nel tema di nuovo, e quindi il tema occupazione da un lato, ma il tema anche e soprattutto come fronteggiare i rischi di una nuova ondata speculativa. Devo dire che i paesi europei ne sanno qualcosa, perché quello che è successo a maggio, aprile, marzo dell'anno scorso sulla Grecia e poi a settembre, ottobre su Irlanda, Spagna e Portogallo la dice lunga. Oggi, dicevo, notizia che per la prima volta il valore dei credit default swaps, ossia dei CDS sui paesi europei, CDS sono i premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi quando si compra un debito, quando si compra l'obbligazione di un paese, ti assicuri nel caso di fallimento del paese, un po' come avviene con le polizze, diciamo, assicurative. Ebbene, il valore ha superato dei CDS, delle polizze sui paesi europei, ha superato per la prima volta quello dei paesi emergenti, e forse anche questo dovrebbe far riflettere sulla marea di liquidità che si sta muovendo sui debiti europei. Grazie innanzitutto e comunque e buon anno a Marco Nado da un lato e Antonio Poglio Salimbeni dall'altro. Adesso facciamo la borsa. Borsa più 0,42% nonostante tutto, dicevo, nonostante gli allarmi lanciati. L'America continua a essere negativa, ma di uno 0,30%, Parigi invariata, Francoforte più 0,60% e ancora Londra meno 0,40%. Fiat di nuovo caso in borsa, questa volta però guadagna bene Industrial più 4,20%, quindi camion e macchine in movimento terra e trattori. CNH Iveco perde invece Fiat Auto meno 2,42%, insomma la somma, ripeto, dei due titoli fa 7,40 euro più di Fiat SPA più 9,05 euro, siamo a 16,05 euro, più di un euro in più rispetto 16,45 euro, più di un euro in più rispetto alla chiusura del 30 dicembre. Quindi buon risultato per Fiat. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, rispetto al risultato di chi ha comprato giovedì scorso, il guadagno complessivo dei due titoli è del 6,8%. Oh, grazie per aver già fatto il calcolo prima ancora che facessi la domanda, bravissima. Però il caso di borsa oggi si chiama Prysmian. Vi ricorderete, abbiamo avuto il numero uno di Prysmian ospite, l'amministratore delegato Battista. Il Prysmian, che è l'ex Pirelli Cavi, ha lanciato un'offerta sull'olandese Draca. Che cosa era successo però? Offrendo 17,2 euro per azione, no? Era arrivata un'offerta della cinese Xinmao, quindi si stava lanciando un gioco di OPA, no? Di offerte pubbliche d'acquisto. In realtà oggi è arrivata la notizia che i cinesi si sono ritirati, è arrivata ieri in serata, a dire il vero, più 9,2% Prysmian. Sì, esatto, oggi appunto si sono letteralmente infiammate le Prysmian, si festeggia il fatto che evidentemente l'operazione dovrebbe andare a buon fine, proprio oggi tra l'altro è iniziato all'OPA che si concluderà il prossimo 3 di febbraio, come dicevi tu il prezzo è di 17,2 euro, soprattutto se l'operazione appunto verrà alla fine realizzata, nascerà il primo gruppo mondiale nel settore dei cavi con un fatturato combinato da circa 7,9 miliardi, è un'operazione che da un punto di vista industriale piace molto agli analisti e tra l'altro non comporta una pressione sulla posizione finanziaria della società Prysmian, visto che questa era ricca di liquidità. Ancora Diasorin, ma che succede adesso? Tutti mi dite che appena ha fatto il debutto, per carità, più 4,35%, secondo miglior titolo oggi. Continua a crescere questo titolo, eh? Più 4,35%. D'altra parte, proprio nelle prime sedute dell'anno i titoli erano andati male. Se si guarda il grafico, alla fine si stanno riportando proprio sui valori di fine 2010. Quindi è vero che il balzo è consistente, ma ancora una volta si è costretti a parlare di rimbalzo tecnico. Allora, altri titoli invece, su Pininfarina è successo di tutto oggi, anche qui i cinesi, ma non i cinesi che abbandonano come nel caso di Prysmian, i cinesi che potrebbero entrare, titolo volatilissimo oggi, la Consob ha annunciato di aver avviato accertamenti, meno 11,3% alla fine. Sì, d'altra parte ieri ricordiamo, ne avevamo parlato, si erano infiammate proprio sull'ipotesi che la società sia venduta ai cinesi, comunque proprio sul finale delle contrattazioni la Consob ha detto che sta monitorando il titolo e evidentemente c'è chi in questo giorno di festa ha deciso di prendere profitto e così le azioni che comunque sono poco scambiate, ricordiamo che il flottante è abbastanza ridotto, hanno perso questo 11%. Sì, festa non per tutti, non per me e te, non per molti ascoltatori che vedo che scrivono, i mercati erano chiaramente aperti, se no che staremo, rispondo a alcuni messaggi, se no che staremo commentando. Fiat Industria sul risparmio più 7,38%, sul privilegio più 8,20%, Meridie più 5,46%, Molecular Medicine SPA più 14,17%, EMS più 10,43%, questi migliori in assoluto. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione invece segnaliamo anche Mediaset più 2,42 come Finmeccanica, Eni più 1,9, insomma il 2% quasi di rialzo, Tods più 1,85, ST Microelectronics di nuovo forte più 1,70%, Telecom più 1,70, sempre sopra 1 euro operazione, 1,034 euro l'ultimo prezzo, Mediolanum più 1,50, Luxottica più 1,1, Bulgari più 0,80. Chi ha perso invece, oltre a Fiat, Saipem meno 1,70, Monte dei Paschi meno 1,60, Impregilo meno 1,5, Unicredit meno 1,5, Tenaris meno 1,20, UbiBank meno 1,1, Campari meno 1%, Mediaset, Edeni e Telecom, se ce la facciamo in un minuto, Leonora. Sì, Mediaset, ci sono molti analisti molto positivi, soprattutto oltre che su Mediaset, del resto comunque i numeri parlano chiaro, anche a fine dicembre si è vista una ripresa della pubblicità nel settore televisivo, comunque oltre che su Mediaset anche sulla controllata spagnola Telecinco che ovviamente è diventata leader dopo la recente operazione. E per quanto riguarda Enel, Eni più 1,9%, ma nel durante della seduta aveva segnato anche più 2,5%, si scommette sulla cessione del 33% della portoghese Galp ai brasiliani di Petrobras e sarebbe un'operazione che porterebbe nelle casse di Eni 4 miliardi dopo che Eni aveva pagato nel 2000 circa 900 milioni tali partecipazioni. Telecom in 10 secondi. Telecom ancora il discorso di ieri, ovvero ci si è resi conto che la società probabilmente è sottovalutata, ricordiamo che ieri Tunisiana, una società del gruppo egiziano Sawiris, è stata venduta il 50% in verità a un'azienda del Qatar, i multipli sono stati molto elevati. Quindi si fa un ragionamento anche su Telecom. Esatto. Brava perché ce l'hai fatta in un minuto, grazie, buona Epifania. Anche Leonora Micheli, a tutti voi in ascolto, il programma oggi termina qui, domani riprendiamo con la programmazione classica 17:18:30. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.